fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera, buonasera di nuovo a tutti, Resto Radio Convento, le 2:10 del mattino per essere precisi, e per essere ancora più precisi è il sabato 30 di giugno del 2018. Come sapete, Risto Radio Convento è il posto giusto per raccontare la propria serata e come è andata, ma non solo, perché ospitiamo anche persone che non stanno festeggiando nulla ma che hanno semplicemente voglia di fare delle foto a casaccio, come sta succedendo con questa ragazza che sta continuando a fare foto senza motivo e interesse, ma lei è molto interessante e quindi ci faceva piacere conoscerla meglio. Dai, come ti chiami? Buonasera, anzitutto. Buonasera, bravissima, partiamo dai fondamentali. Ecco, partiamo, anche se non ho bevuto. Beh, ma è meglio così, così sei più naturale, più spontanea. Come ti chiami? Mi chiamo Elena. Elena da dove? Di Brescia. Brescia, Brescia città? Sì, Brescia città. Brescia città, sei giovanissima, quanti anni hai? Quanti me ne dai? Quante? È una domanda difficile questa. Te ne do 22. No, ne ho 25 in realtà. 25, dai, ci siamo andati non troppo lontano. Allora, dai, che cosa fai stasera? Io ho detto che non stai festeggiando nulla, sei venuta a trovarci. Sì, veramente sono venuta a trovarvi perché è un bel posto, c'è tanta bella gente, quindi alla fine ho deciso di farmi un giro. Brava, bravissima, che hai scelto il posto giusto. E poi, perché so che sei timida e non vuoi dirlo, ma dicevi fuori onda che è un bel posto. Sono single. Sei single e hai trovato, nel senso, il posto giusto, perché qui è il momento giusto per trovare l'anima gemella. E ecco, quindi ti piazzeremo sicuramente. Potrebbe anche essere più vicino di quanto pensi la tua anima gemella, senza bisogno di andare a cercare troppo lontano. Quindi mi raccomando, concentrati sulle tue possibilità e guarda soprattutto chi ha una camicia bianca e un gilet nero, che potrebbe essere la persona giusta per diventare la tua anima gemella. Cerca bene. Cosa? Sta cercando, se non la sente parlare. Sto cercando, però ce l'ho di fronte a me uno. No, con chi? La camicia dove? Bianca. Dov'è? Oh. Ma sei tu? Dov'è? Chi ma è? Sei tu? Dove? No, non è così, guarda, non volevo essere così scontato. Ti ripeto, guarda molto vicino a te, magari sulla tua destra, e non andare oltre al metro di distanza e controlla ma bene. Ma perché di solito le ragazze sbagliano la destra con la sinistra? No, la destra non puoi sbagliare. Sappi, allora, da un lato non c'è niente, dall'altro è su quello che devi guardare, dove non c'è il nulla. Tu guarda lì, concentrati lì e cerca un qualcosa con una camicia bianca e gilet nero. Tu cerca comunque camicia bianca e gilet nero, che mi hanno detto è il tipo tuo ideale. E allora facciamo così, dimmi un po' come cerchi il tuo tipo ideale. Allora, pelato va benissimo. Perfetto, un po' quindi di io sono. Perfetto, quindi cacchio, sono già fuori. Stanno. Mamma mia, sono già fuori. Che sfiga, io sempre. Perché? E perché non corrispondo a questa descrizione? Allora, quindi... la barba c'è, i baffi li facciamo crescere, quindi. Cioè, guarda, per te guarda, mi faccio crescere tutti i baffi del mondo. Quindi 60 kg non mi faccio più la barba per 25 anni. E no, dai, vai, davvero, ma sei in cerca o sei in attesa o sei in nel periodo non me ne frega nulla? Adesso. Vabbè, diciamo che sono in cerca. In cerca, che bello, quando le donne sono in cerca è il momento più bello della vita. E dai, perché ho deciso di mettermi a posto, diciamo. Di mettere la testa a posto. Basta divertimento, perché. Perché ormai... sei una terribile, temibile. Tanto. Tanto? Tanto. Mamma mia, cosa fai di così terribile? Ma di tutto. Tipo, raccontaci. Le serate fino alle 5 di mattina. Quante settimana? Ma quasi tutte le sere. Quasi tutte le sere. Ma secondo te una ragazza sta in casa, chiusa in casa? No. No, vabbè, ma cos'è? I tuoi non ti dicono nulla? Vivo sola. Mamma vive sola. Però faccio la brava, dai. Mamma vive sola. Tu devi guardare alla tua destra, dopo aver detto questa cosa, e concentrati lì, cioè... butta tutte le tue energie sentimentali alla tua destra e vedrai che... Allora sarai, diciamo che sarai soddisfatta. Ho fatto la scelta giusta di venire stasera qua. Vedi, hai fatto la scelta perfetta. Ma vivi solo da quanto? Ormai da 5 anni che vivo. Da quando ne hai 20? Sì. Come mai questa scelta così importante? Perché ho deciso di andare via di casa. Quindi scelta tua. La mia vita, sì. Bravissima, grande. Ti stimo veramente tanto. Ma lavori, studi? Lavoro. Cosa fai? Allora, lavoro in un... Come spiegarti meglio? Non lo so, dimmi tu, trova le parole. Trova le parole che vuoi. Puoi anche dirmelo in moldavo se vuoi, io lo traduco. No, è una stireria industriale. Una? Una stireria industriale. Stireria? Sì. Ma va. Sì. C'è quindi un'azienda? Confezione di abbigliamento. Ah, confezione di abbigliamento. Quindi non è tipo lavanderia che portano la roba da stirare, no. E tu cosa fai? Io lavoro un po' in ufficio con i clienti e controllo qualità. E controllo qualità? Ma vi arriva l'abito, cioè l'abito, il vestito già finito o vi arriva il tessuto e voi lo confezionate? No, è già finito, sì. Da noi si stira, si mette a posto, che vi dico che si chiama Eurostir. Dillo, dillo. La pubblicità. Vai, vai, pubblicizza, pubblicizza. Di Borgo Satollo, Brescia. Vai, vai, vai che ci sta, va benissimo. E, arrivano già pronte, da noi si mettono a posto, si stirano e poi si confezionano. E a chi le rivendete? Se le rivendete? Dolce Gabbana, Armani. Ah, però! Tutta la roba firmata. Ah, però! Quindi rivendete ai brand, non a privati? Sì. Privati mai? Privati mai. Solo aziende, insomma, perché, quei brand lì? Sì, perché. Di alto livello. Facciamo, sì, poi li facciamo in quantità enormi. E il tuo lavoro, cioè lavoro in ufficio, è amministrativo o sempre commerciale? Sempre commerciale. Commerciale. Quindi hai contatti anche con questi personaggi o comunque dei sì, tramiti? Sì, sì. Cioè riesci a parlare con... chi è la persona con cui hai parlato che ti ha colpito di più? Allora... Se c'è, magari non ti ha colpito nessuno. Il più simpatico è stato Maurizio Di Mangano, Maurizio Miri. Sì? Sì, è una persona fantastica. Davvero? Lo conosci? No, l'ho sentito dire, però no, non conosco bene. E il nome invece più famoso che possiamo conoscere tutti, con cui hai avuto a che fare? Non so dirti adesso. Quello che ti viene. È Fabio. Fabio. È il grandissimo Fabio. Fabio, e mi hai... Ah, è vero, quello che mi dicevi fuori onda, di cui mi hai detto, però non posso dire il cognome perché sennò... insomma, per un discorso identità, sì, di privacy, però è un marchio famosissimo, ecco. Mi dicevi fuori microfoni spenti che tutti abbiamo indossato almeno una volta. Sì, bravissimo. Fantastico, fantastico, veramente un bel lavoro, complimenti, ecco. E che hobby hai? Hai qualche hobby, Elena, a parte divertirti e sfondarti la notte fino alle sì, 5 del mattino? Mi piace mangiare il cioccolato. Il cioccolato, sai che io produco cioccolato? Davvero? No, però volevo fare colpo su di te. Dimmi un altro hobby che hai. Allora, mi piace leggere. Sai che io scrivo libri? Sì. Sì, no, cioè no, però senso, potrei lo cominciare. Per me. Esatto, lo faccio per te. Altri hobby che hai? Allora, mi piace sciare. Io sono maestro di sci. Poi, altro? Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Mi insegni? Certo, quando vuoi, gratis. L'inverno prossimo, perché ormai... Eh no, non si scia più, la neve artificiale non c'è più. Altri hobby? Allora, mi piace cantare. Sì, sono maestro di canto, canto in una band, ho vinto Sanremo. Ma sul serio? Certo. Va assolutamente bene. Sì. Ma sono contentissima, guarda. Guarda che, cioè, guarda che ho di fronte quando a me si una dice persona fantastica. Quando si dice abbiamo qualcosa in comune. Cioè, veramente, guarda che sembra che il destino ci abbia scritto, cioè ci stia chiamando. Non c'è una cosa che non abbiamo in comune, Elena, pensaci. Pensaci, pensaci. Cosa? Ma anche quella abbiamo in comune. Ah sì? Eh sì, perché il destino ci dice che ci possiamo giusto incastrare nel modo corretto. Cioè quello che manca a te te lo do io. Sì. Sì, assolutamente sì. E ci incastriamo nel modo... Sì, diciamo che se siamo fatti uno per l'altro. Certo, siamo due pezzi di un puzzle che si compongono e creano un'immagine fantastica. Ti ho conquistata con questa metafora di altissimo livello. E cosa leggi di bello? Allora, mi piace leggere romanzi. Sì? Sì. Sono molto romantica. Romanzi d'amore, quindi? Moccia quella roba lì, no? No, ah, ma un po' più su. Ah, oh, bene, bene, un po' più impegnati. E però dicevo, adesso poi... Com'è? Un po' più impegnativi, bene, bene, complimenti, è sempre bello tenere accesa l'immaginazione e anche la lettura e la cultura, e però sento che il tuo accento non è proprio di qui, giusto? Mi dicevi no. Prima che... No, sono moldava. Di dove? di Chisinau. Ah, Chisinau, la capitale, una delle città più importanti. Sì. Da quanto tempo sei in Italia? Sono ormai quasi 5 anni che sono qua. Quasi 5 anni? Quasi. Vabbè, praticamente sei arrivata e sei andata a vivere da sola, quasi in automatico. Sì, sì. Quasi una cosa concatenata all'altra. Ho trovato il mio lavoretto. E poi via. Da sola, ho fatto la mia vita e basta. Ma sei venuta qui per cercare lavoro o già avevi contatti con questa azienda? Già avevo contatti. E ti sei spostata, quindi. E come stai a Brescia? Ti piace? Sto bene, mi piace. È una città molto tranquilla, penso che. Però anche molto attiva, eh. Non ti volevo parlare sopra, ma c'è da divertirsi a Brescia. Sì, sì, puoi... ci sono tanti posti. Diciamo che puoi essere un po' quello che vuoi. Puoi essere la persona che vuoi. Bravissimo. E basta farti 20 minuti che arrivi qua all'Onato. Esatto, l'Ago di Garda, ragazzi. Al convento. E poi ricordiamolo ancora, non lo volevo dire prima. Dicevi che le persone che lavorano qui, dicevi giustamente prima, che le conosco da tanto. Le conosci da tanto e sono, lo dicevi prima, sono delle persone fantastiche. Bravo. E li voglio un bene dal mondo. Esatto, sincerità, sincerità prima di tutto. Non compriamo assolutamente nessuno a questi microfoni. Non obblighiamo nessuno a dire quello che vogliamo sentirci dire. Quindi mi piace la tua spontaneità, Elena. Allora dai, ti auguro un in bocca al lupo grandissimo. Però grazie, ancora non mi hai detto veramente che tipo di uomo cerchi. Tipo te. Ma tipo te... Allora, devi darmi il tuo numero di telefono se è tipo me, se no devi dirmi la verità e io giro la tua comunicazione e i tuoi desideri a tutti gli uomini che sono qui in pista. Allora, io lo dico il mio numero, dai, segnalo subito. No, guarda che poi diventa un problema, cioè se me lo vuoi dire in privato assolutamente sì, però dopo diventa un problema che dopo ricevi 2000 chiamate e non riesci più a lavorare. Infatti dopo scelgo piano piano. Ah, scegli piano piano, va bene, va bene. Allora attenzione che Elena sta per dare il suo numero di telefono in diretta. No, ci ho ripensato. Mamma mia, sono sempre così. Sempre così, quando poi c'è da concludere, bam, spariscono e svaniscono. È tutto per te. Oh, così mi piaci, così mi piaci. Grande Elena, mi piace questa preferenza che mi hai donato nella tua vita. Io sappi che la saprò ripagare nel modo giusto. Nel frattempo dobbiamo chiudere l'intervista perché Elena dobbiamo amarci e quindi dobbiamo... Si va a ballare. A ballare, dobbiamo innamorarci il più alla svelta possibile, quindi è stato bello parlare con voi. Sappiate che se non mi sentirete per i prossimi minuti in diretta è perché sono riuscito a conquistare il cuore di Elena, che sarà il mio obiettivo nella vita da adesso in avanti. Buonanotte, grazie Elena, alla prossima. Ciao.